Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberger. Buongiorno e bentornati alla nostra finestra settimanale sulle pagine culturali dei giornali stranieri. Tradizioni che vanno, tradizioni che tornano. Si avvicina il Natale e col Natale ritornano i riti, le memorie familiari, il sapore dell'antico. Ma cosa resta di questo patrimonio spirituale e culturale in un mondo in rapidissima trasformazione? Ci sono parole che spariscono dal nostro lessico quotidiano e peraltro ci sono oggetti desueti che ritornano in auge. I bambini di oggi, per esempio, conoscono alla perfezione il significato di blog o di attachment, ma non sanno cosa vuol dire muschio, marzapane o abbazia. In compenso ci sono collezionisti, tra cui anche numerosi giovani, che stanno riscoprendo i dischi di vinile a 33 giri che noi credevamo fossero ormai roba da museo. Di questo ed altro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. Francia. Il 33 giri compie 60 anni, ma non ha nessuna voglia di andare in pensione. Anzi, sembra vivere una nuova giovinezza. Inghilterra. L'Oxford University Press pubblica una nuova edizione del suo dizionario per ragazzi e molte parole legate al cristianesimo, alla monarchia e alla storia britannica sono state cancellate. Germania. Spadaio, fabbricante di lime e annusatore di gas. Sono solo alcuni dei mestieri scomparsi, oggi raccolti in un volume fotografico. India. Su Outlook India, lo scrittore Kiran Nagarkar attacca le TV europee. I servizi sugli attacchi terroristici di Mumbai parlavano solamente delle vittime occidentali. Giappone. Un monaco buddista fa il barista in un locale di Tokyo. Oltre a ordinare da bere, i clienti possono fargli domande sul senso della vita. Australia. Il tempo è denaro? Attenti agli SMS. Secondo una ricerca, a decifrare i messaggi con parole abbreviate si impiega il doppio del tempo. Le vinyle retourne sur les platines, il vinile ritorna sui giradischi, è il titolo di un articolo del Figaro in cui si parla di un curioso ritorno, cioè il 33 giri che noi pensavamo fosse ormai roba da museo, pare che stia ritornando in auge sia pure presso una minoranza di collezionisti, ma tra questi collezionisti ci sono anche molti giovani. L'invenzione del 33 giri è di 60 anni fa, i primi 33 giri furono prodotti dalla Columbia in America nel 1948 e poi importati in Europa. Nell'articolo del Figaro c'è un'intervista a questo Larry Debe, che ha un negozio che si chiama Exodisc da 25 anni in Rue du Mont-Cenis a Parigi, e lui dice che da qualche mese vede gente di 16 o 25 anni entrare nel suo negozio per chiedere degli album storici in vinile. Dice probabilmente questo diventerà il regalo più chic per questa fine anno. Forse, spiega l'articolo del Figaro, queste nuove generazioni abituate alla smaterializzazione, al suono dell'MP3, si appropria di un formato che è nato 60 anni fa e che si riteneva ormai desueto. Ma oltre ai grandi classici di antiquariato, i Led Zeppelin, i Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, eccetera, ci sono anche delle nuove produzioni da parte di alcune case discografiche. La stessa Marianne Faithfull ha insistito perché il suo nuovo album appaia proprio in grande formato, in long play, seguendo l'esempio dei White Stripes e di Jean-Louis Murat ultimamente. Secondo Philippe Thiers, un grande collezionista francese di dischi in vinile, dice che dopo tutto il CD, che si credeva avesse ormai soppiantato il disco classico della nostra giovinezza, in realtà ha avuto una vita molto più breve, perché nato nel 1983 già è stato soppiantato dalla musica online, dall'MP3 e dagli iPod. Probabilmente, spiega Thiers, questi CD con le loro piccole scatolette di plastica intercambiabili sembrano degli oggetti effimeri, non sono degli oggetti da collezione, e quindi in questo senso hanno avuto una vita molto più breve. Per cui bentornato vinile, questo è quanto scrive il Figaro. Ma è un vero ritorno? Lo chiediamo a un esperto, un maestro della radio e un grande esperto di musica, Gianni Boncompagni, che abbiamo in linea. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lo conoscete bene, tutti, uno dei nomi... Ho sentito, non ecco. Dico niente di tutte queste... Ecco. Lunghe storie del... credo che sia una mania, però, se posso dire la mia... Ecco, ma ci sono i maniaci, insomma. Sì, ma pochi. Sono pochi. Il Figaro, quello è un ex barbiere, prima di tutto, non è che sia un grande giornalista. Non va preso per oro colato. Va preso per oro colato. Quelli scrivono perché fa notizia, se no cosa scrivono il Figaro, che devono fare? Quello là è la grande cosa, la moda del 33 giri, noiosissimo, nessuna cosa, sì, chic quanto vogliamo, ma insomma uno può regalare anche dei pergamene, uguale. Perché no, certo. Dei pergamene, oppure queste cose così, insomma... Beh, ma ci sono i bibliofili, ci sono anche i discofili, insomma. Sì, ma sono proprio, voglio dire, sono piccole punte di diamante così, che non fanno zesto, poi non c'è mercato, c'è un piccolo mercatino piccolissimo, c'è una notizia da giornale, ecco, io sono giornalista, ogni tanto mi diverto a scrivere delle cose perché fa notizia ma non è vera, ecco, questa è la verità. Ecco, ma lei li conserva i long play degli anni 60-70 o li ha buttati via? Deve sapere che io facevo una trasmissione alla radio molto popolare che si chiamava Alto Gradimento e anche Bandiera Gialla, quindi noi lo sappiamo bene. Insieme al mio amico Arbor eravamo assillati, invasi e, come dire, assediati dai discografici che volevano che mettessimo i loro dischi. Certo. Forse c'era la old payola, una volta c'erano, insomma, questo termine che significava la corruzione di quello che metteva i dischi. Noi non facevamo parte di quella categoria che è nota nel mondo, e allora dicevo: però guardate, noi non vogliamo niente regali, per carità, metteremo tutti quelli che ci piace, però i dischi, noi vogliamo i dischi. Allora questi non gli pareva il vero, non gli costava niente, e ci hanno mandato per anni e anni, a me personalmente, che sono appassionato di musica classica, tutti i dischi che diciamo stampati dall'epoca. Quindi io avevo a un certo punto nella mia cantina, una grande garage, così, piena di scatole di dischi, ne avevo senza esagerare centinaia di migliaia, direi quasi. Ma soprattutto musica classica. Non sapevo cosa farne, perché erano tutti chiusi in delle scatole, dischi meravigliosi, rari, insomma tutti questi qua, appunto, che ti dicevamo prima, però era impossibile, per vederne uno ci voleva, non so, 3 ore per cercare, poi non erano catalogati, insomma niente. Certo. Allora arriva una persona che dice: guarda, vediamo, un mio amico mi disse, lui è alla ricerca di dischi. Quello venne, aprì una scatola grande, erano grandi scatoloni di cartoni, trovò delle cose bellissime, rare, dei picture disc, all'epoca erano rarissimi, erano dischi in cui erano stampati delle fotografie, stampate fotografie di... Sì, insomma, ne ricordiamo, sì, alcuni di questi. Picture disc. E quindi quando vide quello disse: ah, mamma mia, ma io no, non ce la fa, non sono all'altezza, per carità. Dico: guardi, lei quanto... E lui mi disse una cifra che andava benissimo per me, ovviamente non sapevo cosa farne. Il fatto che mi liberava tutte queste cose dei dischi era una cosa bellissima. Io dico, guardi, va bene così. No, ho detto impossibile, era una persona onestissima, guardi, farà almeno 50 volte. No, guardi, insomma, me le portarono via con un camioncino, tutte queste cose, vari viaggi. Ora non ho più dischi. Ah, proprio si è liberato interamente il magazzino. Beh, ho quelli miei classici, quelli classici. Io sono appassionato di musica classica, ma non è che mi metto ad ascoltare un 33 giri, ovviamente. Certo. Non ascolto. Ecco, ma lo diciamo sa che la verità, non si ascoltano. Recentemente c'è stato un sondaggio che ha fatto il giornale inglese Time sulle opere d'arte più importanti che ognuno di noi dovrebbe aver visto, e alcuni lettori hanno segnalato anche delle copertine di dischi, per esempio Sgt. Pepper dei Beatles, certo, perché quelli, vabbè, certo. Cioè, le copertine dei dischi sono anche non so, ma quelli ce le ho un po' di quelle cose lì, ma insomma per averne avuti sono oggetti tanti di culto. Lo so quante cose dovremmo avere, mamma mia. Prima avere la casa piena di queste cose qua, io che da tanti anni che faccio questo mestiere dovrei tenere tutto, tengo anche un po' tutto, ma insomma poi non si guarda, non c'è il tempo, non... Sì, sono cimeli da vetrina, insomma. Sì, ma cimeli da vetrina, ci vorrebbe il posto e lo spazio per tenerli, però. Ecco, ma è curioso che in questo articolo del Figaro si dice che il suono dei 33 giri era migliore dei CD. A me stupisce un po', francamente. No, ma non è vero, ripeto. È sempre. Io ricordo Frusci, no? L'ex barbiere che scrive queste cose, ma tanto per scrivere. Non è vero. Appunto. Appunto, no? L'hi-fi ha fatto grandi progressi col digitale. Ma per carità, non esiste più, vabbè. Già internet va benissimo così, è bellissimo tutto. Insomma, internet è il futuro, è quello. E quindi non torniamo indietro, non nutriamo nostalgie, no. Ascoltiamo la musica. Tranne qualche matto come noi siamo tutti e abbiamo questa... Qualche piccola mania, insomma. Di pazzia, allora quello lì, vabbè, ma se no la realtà è quella là, diciamo la verità. Bene, noi ringraziamo Gianni Boncompagni, ecco. Buona giornata, a presto. Ci sarà altrettanto, arrivederci. E ora ci spostiamo in India. Lo scrittore Kiran Nagar, caro autore del romanzo God's Little Soldier, il piccolo soldato di Dio, si trovava nell'università tedesca di Tubinga per un periodo di studi proprio nei giorni dell'attacco terroristico a Bombay. E ha guardato un po' le televisioni di tutto il mondo, soprattutto i canali occidentali, dalla CNN alle TV tedesche, e si è un po' arrabbiato perché ha notato che i programmi, i servizi giornalistici dei vari telegiornali, dei canali occidentali, davano più risalto ai morti, alle vittime dei turisti occidentali che non ai morti indiani. In particolare, quando c'è stato l'assalto all'ospedale Kama, praticamente questo ha avuto una scarsissima copertura nelle trasmissioni della CNN o delle TV tedesche, mentre tutta l'attenzione dei media era focalizzata su quanto accadeva all'albergo Taj Mahal. Quindi la morte non è una grande livellatrice, in realtà non tutti i morti sono uguali, conclude Kiran Nagarkar. Ma del resto vi ricordate le urla e le manifestazioni di giubilo nei paesi arabi quando migliaia di bianchi occidentali morivano sotto le due torri di New York? E adesso andiamo in Giappone, dove potrebbe capitare a ognuno di noi di entrare in un bar a Tokyo o a Osaka e trovare dietro il bancone un barista molto particolare, un monaco buddista. Questi bar, che non sono dei templi, sono dei veri e propri bar, si chiamano Bosu Bar, che significa per l'appunto monaco buddista. Uno di questi, scrive Kenji Kimoto sulla Asahi Shimbun, è il Nakano Bosu Bar, che è un piccolo locale che può accogliere al massimo 15 clienti alla volta. Per lo più sono dei ventenni o trentenni che vogliono farsi così un bicchiere con gli amici, ma mentre ordinano da bere possono anche chiedere al barista porgli delle domande sull'esistenza, che cos'è la felicità, dove si può trovare la pace. E Genko Shaku, il monaco barista che offre cocktail che hanno nomi come prete o suora e che è un seguace della setta Shinshu Otani, dà le sue risposte. Insomma, per tirarsi su lo spirito, se vi sentite depressi, niente di meglio che un bicchiere di sapienza orientale. La finestra sul cortile. Parole che vanno e parole che vengono. La Oxford University Press ha annunciato che nella prossima edizione del suo Junior Dictionary, il dizionario di base per bambini e ragazzi inglesi, ha tolto tutta una serie di parole legate alla tradizione cristiana e alla storia inglese. Di questo parla Jolly Henry sul Daily Telegraph e ne parla in maniera piuttosto critica, perché tra le parole che sono sparite dal dizionario della Oxford University Press, per esempio, c'è Isle, che vuol dire navata, c'è Bishop, che vuol dire vescovo, o ancora Chapel, cappella, o Empire, Monarch, impero, monarca. E queste parole sono state rimpiazzate invece da parole tolte dal gergo tecnologico come blog, broadband, celebrity, eccetera. E la motivazione degli editori inglesi è che l'Inghilterra ormai è una società multiculturale, moderna e dalle molte fedi. Il Junior Dictionary della Oxford University Press ha 10.000 parole che però, appunto, in questo caso, con questo sfoltimento, rischiano di non rispecchiare più quello che è la tradizione, l'eredità della cultura britannica. Infatti ci sono molti studiosi che se ne lamentano, per esempio il professor Alan Smithers della Buckingham University dice: noi abbiamo un racconto cristiano, una tradizione cristiana che ci ha dato il senso anche della nostra vita e delle nostre relazioni sociali per gli ultimi 2000 anni. E dire che tutto questo è relativo e sostituibile è abbastanza una cosa piuttosto discutibile. Tra le parole che sono scomparse non solo c'è abbazia, ma ci sono anche parole legate all'ambiente naturale come salice, muschio, felce, ranuncolo, erica, vischio. E naturalmente tutto questo appartiene, se vogliamo, ad un ambiente che è scomparso nella vita urbana dei ragazzi, e questo è infatti quello che dice Vinita Gupta, la responsabile del dizionario per bambini della Oxford University Press. Dice: noi dobbiamo cercare di ridurre le parole e dobbiamo concentrarci su quello che è il lessico dei ragazzi e dei bambini di oggi. Non ha nessun senso che ci mettiamo dentro parole come Pentecoste, che per molti non significano più nulla, soprattutto se sono immigrati di un'altra religione, di un'altra etnia. Ma intanto ci ha raggiunto l'ospite, il professor Giuseppe Antonelli, che ringraziamo. Buongiorno. Buongiorno, grazie a lei. Il professor Antonelli, docente di linguistica italiana a Cassino e autore, tra l'altro, dell'Italiano Istruzioni per l'Uso. Professor Antonelli, ma esistono anche in Italia dei dizionari per bambini? Guardi, io penso che l'equivalente più diffuso di questo Oxford Junior sia il dizionario italiano di base diretto da Tullio De Mauro, sì, pubblicato da Paravia, un dizionario ancora più selettivo quanto al numero dei lemmi, perché contiene all'incirca 7.000 parole e ha come pubblico principale una fascia tra gli 8 e gli 11 anni. Ho capito, ecco, e anche in questo dizionario ci sono... si notano delle assenze legate alla tradizione cristiana. Guardi, che... sì, direi che io sono andato a controllare nell'edizione disponibile online e con mia grande sorpresa ho visto che mancano molte delle parole indicate a proposito della realtà inglese. Manca abbazia, manca monastero, c'è imperatore ma non c'è impero, non c'è duchessa, non c'è duca. Anche per quanto riguarda il mondo naturale, c'è il drago e c'è il leopardo, però mancano l'aragosta e il pellicano, manca la liquirizia, insomma una serie di parole che adesso sono state tolte dalla Oxford University Press, invece mancano già da qualche anno nel nostro dizionario di base. La ragione non penso ecco, sia appunto, di perché, tipo culturale. Non è che c'è una censura, diciamo, rispetto a queste tradizioni o questi... Non penso sia questo. Il problema è che questo tipo di dizionari si basa sulla frequenza d'uso verificata a campione, quindi in gran parte presunta, delle parole in una serie di tipologie testuali che possono toccare, possono essere raggiunte da un bambino, un ragazzo di quell'età, e quindi si immagina o si verifica a campione che queste parole non rientrano più, diciamo, nel mondo frequentato da un ragazzo di quest'età, il che probabilmente vale per l'Italia come per l'Inghilterra. Quello che colpisce però è che nel dizionario di base, almeno ripeto fino a quest'ultima edizione, mancano anche le parole che invece sono state introdotte adesso in Inghilterra, cioè mancano tutte le parole tecnologiche, manca mail, manca sms, manca blog, manca chat, e tutte parole che invece mi sembra siano all'ordine del giorno nella vita di un ragazzo italiano. Ecco, ma non crede che limitarsi a prendere atto di un impoverimento del lessico o del fatto che certe parole scompaiono dall'uso rischia di aumentare questo impoverimento, di dare un incoraggiamento ai giovani a smettere di usare certe parole? Di luoghi, tra l'altro, come, non so, l'abbazia, il monastero, uno ci può andare in gita o in visita guidata e quindi dovrebbe ben sapere di cosa si tratta. Sono assolutamente d'accordo con lei, il rischio soprattutto è quello di un appiattimento diciamo di tipo conformistico, l'effetto tutto intorno a te, no? Un mondo di parole a immagine e somiglianza di quello che esatto. Viene già proposto dai grandi mezzi di comunicazione di massa, quindi appiattito a una dimensione. Il problema però è cercare di capire qual è l'uso, la funzione anche che hanno i dizionari a seconda delle varie fasce d'età. Questi dizionari di base, oltre che per l'infanzia, sono pensati anche per esempio per utenti stranieri della lingua e quindi inevitabilmente si basano sulle parole di maggiore appunto disponibilità o di maggiore frequenza d'uso. Il punto è che probabilmente poi dagli 11 anni in poi si può cominciare ad utilizzare il normale dizionario dell'uso, lo Zingarelli oppure il De Mauro Maggiore, e a quel punto certo la rosa, la gamma di parole si amplia in un lessico molto più, insomma, anche segmentato e molto più stratificato anche in senso storico, per certo. Intendersi anche parole che non sono certo dell'uso ma appartengono alla nostra tradizione letteraria, mettiamo speme, uno sta leggendo Foscolo, uno studente sta studiando la poesia di Foscolo, lo va a cercare sullo Zingarelli e lo trova. E lo trova. Però è curioso che gli italiani facciano un uso un po' strano del dizionario, perché sempre sul sito della Paravia c'è una statistica relativa ai lemmi più richiesti e più consultati del dizionario maggiore De Mauro, dal 2006 a oggi, dal gennaio 2006 a oggi, e curiosamente la parola più cliccata è la parola gatto. Veramente. Che voglio dire, non penso richieda grandi competenze né di tipo semantico né di tipo fonomorfologico. Altre volte chiaramente si vanno a cercare parole invece per sapere come si scrivono, perché al terzo e quarto posto troviamo obiettivo con due B e poi al quarto obiettivo con una B, oppure per sapere come si pronunciano, al 19° posto c'è ossimoro o ossimoro. Certo. Questo ha più senso. Finalmente abbiamo delle parole culte di cui veramente si può bene andare a guardare il significato olistico, idiosincrasia o anche neologismi come implementare. Insomma, la sensazione è che spesso il dizionario sia usato più come una grammatica che non come un serbatoio, no? Un repertorio per arricchire il proprio lessico. Il proprio lessico. Ecco, ma una delle motivazioni dei responsabili del dizionario della Oxford University Press è il fatto che la società britannica è diventata multiculturale, quindi bisogna rispettare tutte le culture e tutte le fedi. Ma il problema che si pone ormai anche in Italia, anche nelle nostre scuole, tant'è vero che si parla di classi differenziali, no? Per i figli degli immigrati che ancora non hanno dimestichezza con la lingua italiana. Lei come vede questa proposta? bisogna tener conto sicuramente che c'è un problema di apprendimento linguistico da parte dei figli degli immigrati, e quindi non si può far finta che questo aspetto non ci sia. Certo. La soluzione mi sembra una soluzione di dubbia riuscita, perché soprattutto nell'infanzia l'apprendimento linguistico non avviene tanto attraverso l'insegnamento scolastico, ma avviene attraverso gli scambi tra coetanei, tra parità, avviene attraverso l'uso, no? L'entrare in contatto con la lingua viva. Quindi sarebbe molto pericoloso riunire classi differenziali, perché avrebbe un po' l'effetto, io mi ricordo quando ero ragazzo mi mandavano in Inghilterra a studiare l'inglese, però mi mandavano con gruppi di studio, certo, organizzati da Viaggi Italiani, e si stava tutti insieme, noi, certo, parlavamo tra ragazzetti italiani o romani nella fattispecie, e con gli inglesi avevamo giusto i contatti da McDonald's, e quindi era stato inutile arrivare fino in Inghilterra. Diciamo, proprio da un il rischio è lo stesso un po', ecco, ho la sensazione di sì, forse sarebbe meglio immaginare, accanto a insegnanti di sostegno che sono previsti per bambini con diverse difficoltà di apprendimento, un sostegno magari maggiore con insegnanti specializzati nell'insegnamento della lingua italiana, insomma, sì, un supporto glottodidattico che possa in qualche maniera recuperare il ritardo di partenza, ma sempre in un ambito di scambio libero e linguistico, e non solo tra pari età. Bene, noi ringraziamo il professor Antonelli, buona giornata e a presto. Grazie anche a lei. Arrivederci. Arrivederci. Oltre alle parole scompaiono anche i mestieri, e in Germania una raccolta fotografica pubblicata dalla casa editrice Partas Verlag ci accompagna proprio alla scoperta di alcuni di questi mestieri. Per esempio, che fine hanno fatto i limatori, i suonatori di organetto, oppure gli spadai o gli annusatori di gas? Sono dei mestieri che per noi sono totalmente sconosciuti, sono ormai del tutto scomparsi, ma fino a 100 anni fa rappresentavano l'ambiente lavorativo quotidiano di molte città europee. In questa raccolta fotografica si possono vedere molte foto inedite scovate negli archivi berlinesi. Sfogliandolo ci si immerge in un curioso mondo di ieri, ma il volume non suscita nostalgia. La vita di allora non era meno dura dei nostri attuali tempi di crisi. E adesso andiamo in Australia, anzi per la precisione in Tasmania, dove un psicologo, il dottor Nena Kemp, ha fatto una curiosa ricerca, ha provato a misurare il tempo che ci si mette a decifrare quei messaggini scritti in maniera criptica con parole abbreviate come BBS, Be Back Soon, Torna Presto, oppure TTIL, Talk to You Later, e così via, e ha scoperto che mentre chi manda il messaggino ci mette pochi secondi, quello che lo deve decifrare ci mette il doppio del tempo. Quindi forse, come diceva quel tale, scusate se sono stato prolisso ma non ho avuto tempo di essere breve, qua si potrebbe invertire la cosa e dire taglia corto, scrivi messaggi più lunghi. E per oggi è tutto, ringrazio Daniele Casagrande e Laura Marchesi in redazione, Giorgio Mattè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.